il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Ci siamo imbattuti di recente in un comunicato che parla di un giardino che rischia di sparire, il giardino Zantomio a Padova. Questo comunicato era firmato da Maria Pia Cunico, professoressa all'Università di Architettura di Venezia, professoressa di Architettura del Paesaggio. Questa cosa ci ha incuriosito e volevamo un po' capire di più, anche perché questo giardino, così come altri che ci sono negli spazi urbani, in effetti sono delle, non solo delle piccole oasi di verdi, ma a volte sono anche dei luoghi storici che hanno un significato molto importante a livello urbanistico. Ecco, abbiamo con noi oggi Maria Pia Cunico, benvenuta. Grazie mille. Grazie professoressa. Sì. Allora, ci aveva incuriosito non solo l'appello che era stato fatto e firmato da varie associazioni, non solo ambientaliste e culturali, ma anche proprio l'idea di questi giardini abbandonati che vediamo spesso magari quando passiamo per le vie anche del centro storico e magari hanno una loro storia. Questa è una questione, un problema reale. Sì, devo dire che il giardino Zantomio ha una storia speciale, cioè non si tratta solamente di un giardino storico, ma si tratta di un vivaio storico ed è l'ultimo vivaio che appartiene alla storia florovivaistica della città di Padova, che è una storia antica, quindi è prezioso anche come ricordo di una tradizione artigiana fantastica che una volta connotava non solo la città ma anche la provincia. I proprietari in effetti erano dei vivaisti? Sì, non erano in realtà proprietari, credo che loro fossero sempre stati in affitto da questa associazione che ne aveva la proprietà, però loro hanno praticamente fornito piante a tutta la città di Padova e pare addirittura che siano stati quelli che hanno fornito le piante per il giardino Treves che Giuseppe Iappelli ha realizzato alla metà dell'Ottocento nella città di Padova, quindi vi è una forte relazione tra questo giardino e la storia della città. Ecco, noi siamo poco rispettosi verso i muri costruiti, sappiamo che nel Novecento molti edifici storici di Padova sono stati abbattuti, anche in intero quartiere medievale come quello di Santa Lucia, ancora di più lo siamo meno rispettosi per il nostro verde. Ecco, qual è il rischio che corre questo giardino, che penso sia indicativo anche di tanti altri? Sì, beh, il rischio che corre, fra l'altro è un rischio che mi è stato segnalato dalla Associazione Italia Nostra, perché anche loro a suo tempo si erano occupati di questo giardino quando il vivaio aveva chiuso, già si parlava di una sua possibile scomparsa. La minaccia è proprio quella che venga costruito un condominio a cubatura più grande della vecchia casa che c'è ora e che il verde intorno poi venga utilizzato come spazio parcheggio. Quindi di quel verde storico lì potrebbero rimanere qualche albero, ma del suo senso compiuto ne andrebbe perduta il valore. Vi sono altri giardini a Padova o in altre città del Veneto che stanno rischiando di scomparire e magari andrebbero valorizzati o recuperati proprio per il loro significato storico, oltre che botanico? I giardini privati, che non sono sottoposti a vincolo, e a Padova ce ne sono moltissimi, corrono il rischio di essere trasformati in parcheggi. Con l'aumento del traffico urbano, ovviamente ogni spazio interno vuoto è prezioso e il problema è proprio quello, si va presto a pavimentare e a trasformare un prato in asfalto. Poi però vi è un altro problema, secondo me importante, che è quello dell'inquinamento atmosferico. Ogni albero è un polmone verde che ci fornisce ossigeno, ogni albero che viene abbattuto contribuisce ad accrescere l'inquinamento atmosferico della città. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Va bene. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Maria Pia Cunico, professoressa di architettura del paesaggio allo IUAV, l'Università di Architettura di Venezia, e vorremmo sapere da lei che cosa significa architettura del paesaggio. Architettura del paesaggio significa comporre, progettare, non però con elementi inerti, come la pietra, come il mattone, come il cemento, ma con elementi vivi, quindi che quindi hanno una storia, che quindi hanno una vita che spesso va oltre la vita dell'uomo e che cambiano nel tempo, crescono, muoiono, si diramano, insomma hanno tutto un fascino meraviglioso dell'imprevisto e che deve, e una chiesa del paesaggio deve sapere per poterli appunto mettere insieme e comporre un'opera d'arte come un giardino. Ecco, nella prima parte di questa rubrica abbiamo parlato di architettura, ma più che altro di piccoli spazi e di giardini urbani. Quando uno pensa a un nome così altisonante come architettura del paesaggio, in realtà gli vengono in mente montagne, vallate intere, sì. o altro. Non è la stessa cosa? No, vi sono tanti paesaggi. Ovviamente il paesaggio delle montagne è un paesaggio naturale, anche se alla fine poi l'uomo interviene spesso su questo paesaggio naturale, ma è formato in genere dalla natura. Vi è il paesaggio agrario, che è tutta la parte degli spazi coltivati, campagne, vigneti, eccetera, e poi vi è il paesaggio dei giardini, che invece è un paesaggio costruito a scopi estetici. Ecco, questa è la grande differenza rispetto ad altri paesaggi. L'intento è proprio quello di avere un luogo di bellezza, ed è la bellezza, ne abbiamo tanto bisogno. Vi sono delle normative, o meglio, la normativa in questi ultimi anni pone anche più attenzione a questi giardini, quindi anche i proprietari di giardini hanno maggiori vincoli su quello che può essere piantato, su come viene realizzato e anche sull'eventualmente distruggere un patrimonio che, sappiamo che un giardino è un patrimonio anche della collettività, non solo del proprietario, a volte almeno. Sì. Ma non vi sono grandi aiuti purtroppo, poi le normative dipendono da comune a comune, vi sono alcuni comuni, non il nostro, illuminati tra virgolette, che prevedono che qualsiasi abbattimento debba essere regolamentato e normato e controllato, però purtroppo i proprietari sono soli, insomma, e quindi spesso l'abbandono non è dato da una cattiva coscienza, ma da una concreta impossibilità di intervenire. Poi vi sono i parchi urbani, che sono i parchi pubblici. Per fortuna in questo Padova, diciamo, ha abbastanza negli anni ha abbastanza sostenuto questo tema, e quindi possiamo dire che fino ad oggi è una città che può essere veramente chiamata una città verde. La ringrazio, professoressa, di queste informazioni che ci ha dato. Speriamo di poter avere buone notizie rispetto a questo giardino e di tornare su questo argomento magari in futuro. La ringrazio. Buongiorno, buongiorno. E visto che siamo in tema di verde, concludiamo la trasmissione con una notizia, che è l'approvazione della riforma della pubblica amministrazione, che ha dato il via al comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attraverso la riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Il nuovo comando, che conterà circa 7.000 uomini specializzati impiegati sul campo, assicurerà un ramificato presidio del territorio, rappresentando una delle esperienze più avanzate d'Europa, ha dichiarato il ministro Maurizio Martina. Perché l'Arma dei Carabinieri? Perché l'Arma negli anni ha sviluppato anche competenze specifiche in questo campo, con nuclei specializzati come i NAC, il nucleo anticontraffazioni, il NOE e il NAS, il nucleo antisofisticazioni. Viene potenziato così il livello di presidio del territorio attraverso il rafforzamento dell'attuale assetto, con la cooperazione della capillare rete di strutture dell'Arma e delle sue capacità investigative. Il personale mantiene le competenze possedute, viene impiegato nell'attuale sede di lavoro e nell'incarico ricoperto, e il nuovo comando è posto alle dipendenze funzionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.